Effetto Mondo. My mother and father signed up to a common market, not to a political union, not to flags, anthems, presidents, and now you even want your own army. Va bene, Giulia, ciao Giulia Crivelli. Buongiorno. Non tutti hanno riconosciuto quest'uomo qua. Chi è quest'uomo qua? Nigel Farage, leader del Brexit Party. Sì. Ieri ha fatto il suo ultimo intervento al Parlamento Europeo, perché poi, appunto, come ci dicevamo, i parlamentari... È l'ultimo giorno di lavoro. È l'ultimo giorno di lavoro. E diceva, insomma, ha fatto un discorso, ha detto, ecco, 47 anni, ci siamo rimasti fin troppo in questa Unione Europea, perché i miei genitori, che avevano quindi visto il momento dell'ingresso del Regno Unito nell'Unione Europea, avevano votato per un common market, cioè per un mercato libero di libero scambio di merci, non per bandiere, national anthems, inni nazionali, e adesso volete persino un esercito comune. Tra l'altro, subito prima di questo estratto che abbiamo sentito, lui si era messo a sventolare delle bandierine del Regno Unito ed gli era stato tolto, zittito il microfono, allora l'ha messa via. Sfoggiato calze. Sì. Però naturalmente, insomma, la notizia è su tutti i quotidiani, con europei e non soltanto. Tra l'altro, un'altra cosa che notano tutti è che tra i parlamentari, anche questo un po' un fuori programma, i parlamentari britannici si sono messi a cantare una sorta di in forma quasi a cappella il loro inno nazionale, quindi è stato, insomma, un addio abbastanza folcloristico. Scenografico, coreografico, folcloristico. Dopodiché, forse la pagina più bella è la prima pagina dell'Independent, che è tutta azzurra, ci sono tutte le stelle dell'Unione Europea, ce n'è soltanto una nera che naturalmente... è quella che viene collegata al Regno Unito, e c'è scritto addio in tutte le lingue dell'Unione. E la domanda che si fa all'Independent è: oggi la Gran Bretagna se ne va dall'Unione Europea, è inevitabile o forse un giorno rientreremo? No, ti prego, riapriamo la telenovela, che abbiamo appena chiusa e già si parla di riaprirla. Invece comunque bella questa prima pagina dell'Independent, guardando avanti. Un po' mesta, il Times invece dice che quale sarà già la prossima mossa a cui sta pensando Boris Johnson. Sapete che in realtà resta tutto uguale fino al 31 gennaio del 2021, poi però le cose cambiano davvero appunto dal punto di vista economico, e per esempio Boris Johnson ha già detto che vorrebbe un Canada styled trade deal, cioè molto simile a quello che l'Unione Europea ha col Canada. Sì, questo esempio è stato fatto molto, sì. Poi c'è molta attenzione su alcuni quotidiani, tra i quali il Daily Mail, che invece titola di una nuova alba per la Gran Bretagna, con uno special issue di 20 pagine tutto dedicato alla Brexit, che tra l'altro suonerà un'ora prima, perché loro sono un'ora indietro, deve essere la mezzanotte della maggior parte dei paesi europei, che però sono le 11 di sera. È il giusto sigillo alla Brexit, cioè festeggiamo, cioè celebriamo in orari diversi. Vabbè. E però uno dei temi di negoziazione, viene anticipato da molti giornali, sarà la pesca, e in particolare le quote nella mano. Una grande, vi ricorderete, Boris Johnson che buttava pesci davanti al Parlamento quando ancora non era Premier, perché in realtà effettivamente, se vogliamo a rigor di logica, la Manica dovrebbe essere per metà della Francia, diciamo, e per metà del Regno Unito, ma in realtà le quote destinate ai pescatori britannici, grande tema, erano pochissime, l'8%, il resto era per l'Unione Europea, cioè sostanzialmente per i francesi. I pescatori britannici, inglesi, perché lì è proprio Inghilterra, hanno paura che su questo si potrà giocare, si potrà avere un quid pro quo, non un quid pro quo, un quid pro quo, cioè concedere comunque, lasciare dei permessi di pesca all'Unione Europea, ripeto, che poi vuol dire sostanzialmente alla Francia, per avere in cambio qualcos'altro. Quindi c'è già maretta sulle prossime puntate della Brexit. Vabbè, no, leggo il messaggio di un ascoltatore che dice che i cretini sono solo gli inglesi, noi no, qualche dubbio giornalistico, non so cosa si riferisce. No, tu hai detto cretini? No, assolutamente, ma poi tra l'altro... Cretini. Non penso che gli inglesi siano cretini. Per esempio, abbiamo appena parlato di francesi, Le Figaro per esempio titola l'addio all'Europa, quindi l'addio all'Europa, però chiama Londra, la Singapore sul Tamigi, perché ci sono alcuni economisti, analisti che pensano che in realtà per la Gran Bretagna adesso davvero non sarà magari una nuova alba per per tutto il Regno Unito, ma per Londra potrebbe essere in effetti che resterà la capitale finanziaria o comunque al momento la città europea con dove sì. di fatto ci sono più società di banche di investimento e in generale comunità finanziaria più ampia, potrebbe diventare in effetti una sorta di Singapore sul Tamigi, cioè una Singapore occidentale. Senti, io ho letto poco fa un'agenzia che secondo Nature a Wuhan potrebbero esserci tra 40.000 e 190.000 casi di contagio reali, perché secondo le loro stime, da quello che siamo fatta un po' la tara delle notizie ufficiali, quello potrebbe essere un numero di contagi. Le vittime si sa sono 213, quindi non c'è allarmismo sulle vittime. Sul numero dei contagi però potrebbe esserci questa, lo dico perché in questi giorni si è molto parlato, la Cina che copre, non copre, eccetera eccetera. Questo è Nature. Sui giornali come se ne parla nel mondo? Ce n'è naturalmente anche oggi, è un grande tema su tutte le prime pagine. Financial Times, che ha questa formula di mettere una foto notizia staccata poi dal titolo principale che è dedicato alla Brexit, oggi è la foto notizia di quella nave da crociera che sapete è stata la nostra ieri fermata a Roma. Però per esempio il China Daily titola sulle ultimissime dichiarazioni di Xi, che forse non hanno avuto il giusto risalto qui da noi, e cioè che il premier Xi Jinping ha detto che a questo punto lui è pronto a mettere in campo tutto il potente e numerosissimo esercito cinese per aiutare in questo, probabilmente anche nella costruzione di ospedali. Vabbè, qui noi non pensiamo che siano, probabilmente saranno delle sorte di ospedali da campo, però che stanno già, appunto, sono già stati allestiti, ne verranno allestiti altri. Il China Daily se la prende molto con Washington, che e in generale con tutti i paesi che, come dicevi tu, stanno approfittando, insomma, di questa crisi per gettare delle ombre sul comportamento delle autorità cinesi, e dice che tra l'altro Washington ha approfittato di questi giorni concitati per passare una legge sul Tibet che ovviamente a Pechino non piace. Però viene anche approfondito a proposito di numero di contagi confrontato con il numero di persone infette, e il China Daily dice però ci sono anche le good news, cioè che il tasso di mortalità, ma sempre dobbiamo pensare che il numero di infettati sia quello corretto, il tasso di mortalità non è poi così alto. E in effetti questo sarebbe anche vero, ho sentito anche ieri Ilaria Capua, la nostra virologa ex parlamentare che ora è a Atlanta, e diceva il tema è quello, perché poi alla fine se guardiamo, se veramente i numeri sono questi, alla fine il tasso di mortalità di un'influenza di quelle che abbiamo tutti gli anni anche in Europa, quindi lei quasi era per no panic, ecco. Questa qui dei numeri e dei confronti è un tema molto delicato. Quello che spiazza un po' nel confronto, da quello che ho capito io, non sono un esperto, è che il tasso di mortalità che calcoli con un numeratore, il numero dei decessi, un denominatore, uso volutamente termini matematici, che sono i contagiati, noi abbiamo tantissimi contagiati in questo momento in Italia, c'è gente a letto con l'influenza, ce ne sono 3 certo. milioni, e quindi diciamo i casi di decesso numericamente sembrano tanti. Se poi fai il confronto con col numero delle persone che hanno la febbre, fortunatamente da noi l'influenza non è così mortale. Però insomma il confronto è difficile, perché la Cina vive un altro contesto anche sociale. Giulia, continuiamo a raccontare questa cosa, secondo me anche divertente, dell'impeachment. L'impeachment. Ormai siamo alle ore finali della possibilità di fare le domande. Guardate, veramente guardatelo, perché sembra quasi una commedia, perché lo sapete, i senatori non possono parlare, in teoria se parlano possono essere incarcerati, quindi devono scrivere la loro domanda, che deve essere di massimo 4 righe, su un cartoncino che viene data al giudice. Sentiamo, ieri è successa una cosa molto strana, ha ricevuto uno di questi cartoncini ma si è rifiutato di leggere la domanda. Sentiamo il giudice che appunto spiega questa, si giustifica anche, spiega perché non la leggerà. Mr. Chief Justice, Senator from Kentucky, I have a question to present to the desk for the House Manager Schiff and for the President's Counsel. Ecco, qui è il segretario della procedura che dice: bene, il prossimo cartoncino viene da un senatore del Kentucky, il famoso Rand Paul, che è un grande sostenitore di Donald Trump, e poi segue una procedura quasi reale in cui viene portato il cartoncino al giudice. Sentiamo il giudice cosa dice. The presiding officer declines to read the question as submitted. Tra l'altro parla in terza persona, perché dice il funzionario incaricato, cioè lui, io, si rifiuta di leggere questa domanda. Perché si è saputo dopo, perché poi si è scatenato su Twitter Rand Paul, lui in questo cartoncino chiedeva di fare il nome del famoso whistleblower, cioè quella persona che avrebbe ascoltato la famosa telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino e avrebbe rivelato che in quella telefonata c'era stato il quid pro quo. Il nome del whistleblower per legge non si può fare, e quindi cos'è? In realtà poi anche qui gli azzeccagarbugli scatenati, si può fare almeno in Senato, ma tanto se si fa in Senato, che è una seduta pubblica, poi lo sapranno tutti. Insomma, vediamo come finisce questa cosa. Sul fronte del famoso voto per chiamare altri testimoni, ieri c'è stato un repubblicano importante che ha detto io voterò no. Quindi è ancora tutto molto incerto, ma l'ascoltatore che ci chiedeva quid pro quo, qui pro quo, segnalo che una parola usatissima che in Italia di fatto non usiamo, sempre mutuata dal latino, è sub pina, scritto poena, naturalmente il dittongo che poi viene letto come una E, scritto OE, è un termine proprio del common law, ma soprattutto usato negli Stati Uniti, che vuol dire obbligare qualcuno a testimoniare, cioè venire, e tra l'altro vabbè, immaginate come lo pronunciano, supina, la molto telenovela spesso. Impeachment anche dialettica e terminologica andrà avanti. Grazie Giulia Crivelli, la prossima settimana con Jacopo De Franchi in redazione e Roberta Frisani in regia. Ciao da Alessio Maurizio.